L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Una nuova puntata dell'Altro Pianeta in cui parleremo di animali in città. Non parliamo ovviamente di cani, gatti o canarini, ma di animali selvatici in città. L'occasione ce la dà il libro Vado a vivere in città di Francesco Tomasinelli, edizioni Il Piviere. Un libro che tra l'altro verrà presentato al pubblico genovese proprio oggi al Museo Civico di Storia Naturale, che è in via Brigata Liguria, tra meno di un'ora, alle 15. Quindi se siete in zona fate ancora in tempo a raggiungere via Brigata Liguria. Francesco Tomasinelli è divulgatore scientifico, fotogiornalista, autore televisivo, spesso ospite anche di trasmissioni televisive, quindi buon pomeriggio. Buon pomeriggio Tomasinelli. Grazie, buongiorno. Allora, nel libro lei parla diffusamente degli animali che negli ultimi decenni si sono trasferiti in città, preferendo l'ambiente urbano a quello naturale. Quali sono, le chiedo? Ma direi sì, noi abbiamo la percezione che alcuni gruppi si trovino molto meglio e gli uccelli sono tra questi. Per esempio, un fenomeno recente riguarda la proliferazione dei rapaci all'interno degli spazi urbani, no? Che è una cosa avviata ormai qualche decina di anni fa, ma che è diventata più evidente negli ultimi anni. I rapaci, questo per stare tra gli uccelli. Poi nel libro ci sono poi tutte invece anche le altre sezioni, no? Cioè c'è proprio dettagliatamente mammiferi, rettili, così via. Quindi è veramente uno spaccato molto ampio che distingue molto bene anche tra città e città, perché ci sono città in cui alcuni animali si sono trovati meglio, diciamo, e c'è una bella descrizione di Genova con tutti i suoi pappagalli, e altre città in cui si trovano altri animali. Possiamo dare un po' un'idea agli ascoltatori? Sì, sì, è vero, ci sono città molto adatte ad essere colonizzate dagli animali, no? Che ospitano delle popolazioni davvero consistenti di animali selvatici. Te citavi il caso di Genova. Genova è una città interessante che io ho studiato da vicino, perché sono, anche se ora vivo a Milano, sono nato a Genova. E ha studiato a Genova, quindi immagino che questo le abbia dato l'occasione di avere uno sguardo anche professionale sulla città. Sì, esatto. Ed è una delle città più interessanti da questo punto di vista, no? Perché ha, questo è un elemento chiave, no? Per la ricchezza della fauna selvatica in città, ha una incredibile varietà di ambienti, no? C'è il mare a breve distanza e le montagne alle spalle del tessuto urbano, e una rete verde piuttosto estesa, no? E in buona salute. Quindi l'insieme di questi fattori consente di supportare una vasta popolazione di animali selvatici all'interno delle città. E citavi il caso dei pappagalli, che è una cosa molto divertente e unica di Genova. Ci sono pappagalli anche in altre città, sono i parrocchetti dal collare, ma Genova ospita anche altre specie come le amazzoni fronte blu, che sono degli uccelli bellissimi, no? Che normalmente sì, si vedono ai tropici. Uno si chiede subito che ci fanno questi animali a Genova. Sono stati liberati anni fa da appassionati, no? E adesso si sono naturalizzati, sono abituati a stare all'interno delle città, si sono riprodotti e sono aumentati di numero, perché Genova ha un clima mite e una grande varietà di ambienti, tante piante ornamentali che consentono di sostenere questa popolazione di uccelli. Lei scrive, è un caso un po' unico, sì, nel panorama italiano. Beh sì, sì, comunque io ho visto comunque pappagallini anche in altre città, come diceva lei. Non è che si è, saprei come dire, stanno diffondendo, ma è perché in varie città sono stati liberati e in alcune si sono trovati bene, è per quello. Corretto, non è una diffusione spontanea, è colpa nostra, tra virgolette, anche se non hanno, per adesso non sembra abbiano nessun impatto negativo, e rimangono confinati all'interno delle città, perché all'esterno patiscono la competizione con altre specie e hanno comunque più difficoltà a trovare da mangiare, quindi è un fenomeno esclusivamente urbano. I parrocchetti al collare ormai si vedono, ci sono anche a Milano, in certe zone, a Roma ce ne tantissimi, però gli amazzoni sono presenti solo a Genova, che sono più grandi e ancora più colorati. Poi ci sono, sempre che riguardano Genova, alcuni racconti molto curiosi, no? Mi ricordo quello del cinghiale nel letto del fiume, che si è trovato lì forse perché è distratto e è sceso un po' troppo a valle, però comunque è arrivato in città alla fine. Sì, in effetti sempre per il solito motivo, no? Che la città di Genova è vicinissima all'Appennino, è chiusa alle spalle dell'Appennino, no? Ci sono queste popolazioni di selvatici, di cinghiali in particolare, che arrivano in città e sfruttano l'alveo dei fiumi per penetrare all'interno del tessuto urbano, no? Quando i fiumi sono in secca, i torrenti, questi animali si muovono lungo il torrente e arrivano addirittura in centro città, no? E ci sono degli episodi molto curiosi e divertenti. C'è una famosa intervista che gira su una registrazione, anzi, che gira su internet, molto divertente, dei vigili del fuoco che ricevono questa chiamata circa la presenza di un elefantino nel torrente Bisagno, no? È un cittadino che chiama e non fa caso che è un cinghiale e continua a chiamarlo elefante con i piccoli dietro. Che poi non si sa se risulta un po' più da matti vedere un elefante nel Bisagno o un cinghiale nel Bisagno. Esatto, ma lui insiste su questo concetto dell'elefante, che è una roba molto divertente, fino a che il vigile del fuoco non gli fa notare che potrebbe essere un cinghiale. E poi non aveva la proboscide, per quanto piccolo, insomma. Esatto, esatto. Quello era il tratto distintivo, forse doveva vedere un po' più di trasmissioni televisive per imparare a riconoscere gli animali. Ci sono altre città in cui capitano queste? Vedo Firenze spesso anche nominata, ho visto che anche lì la volpe al parco, no? La volpe c'era la foto bellissima della volpe che aspetta l'autobus, quasi sembra. Immagine che ha fatto un mio amico naturalista, Giacomo Radi, ed è fatta alle porte di Firenze, non dovete immaginare episodi di questo tipo in pieno centro città. È difficile da noi. Succede a Londra, per esempio, dove c'è una popolazione di volpi ormai completamente abituate a vivere all'interno delle città, che sono anche sostenute dalla popolazione in un certo senso. Ma in Italia è ancora un fenomeno molto limitato. E c'è sicuramente il caso di Firenze, ma avviene in moltissime altre città italiane. E sicuramente anche a Pavia, in pianura padana, vi dico posti dove ho avuto esperienze dirette in tal senso. Sì, su Pavia ricordava anche la più grande colonia di pipistrelli, che però in realtà non era città di Pavia, ma è colonia urbana, non è città di Pavia, un po' fuori. Sì, è un caso particolare perché riguarda, ora non ricordo il nome del comune, comunque è una chiesa. Sì, Breguardo. Comunque sì, è un episodio molto curioso, ma che non riguarda una grande città, no? È un caso fortunato, se vogliamo, di questa colonia di pipistrelli che si è stabilita all'interno di una chiesa, dalla grotta di una chiesa. Capita di avere colonie di pipistrelli anche nelle soffitte delle case, no? E se non ci si abita non fanno niente di male, perché poi gli animali si muovono e mangiano, come ormai tutti sanno, una marea di zanzare. Tra l'altro, ogni appunto, nella pianura padana non può fare che piacere. Insomma. No, va bene. Un individuo può arrivare a mangiare centinaia di zanzare in una notte, no? Un solo pipistrello. Quindi alla fine il bilancio è molto positivo. Senta, al di là del fatto che è molto bello, entusiasmante trovare la volpe alle porte della città, però questo accade per quale motivo? Perché riduciamo gli spazi nei quali gli animali selvatici possono vivere, o perché sono attratti dal cibo, da quello che noi abbiamo in città, insomma? È una combinazione di fattori e dipende molto dalle specie. Ci sono animali che si adattano benissimo a vivere nelle città, e la volpe non è esattamente tra questi. Diciamo, potremmo pensare alla cornacchia, ai passeri, per esempio, sono animali che se la cavano benissimo in città perché qui trovano da mangiare, temperature più umidi, no? La possibilità di nidificare, eccetera. La volpe è un frequentatore occasionale ed è spinta qui dalla presenza del cibo, no? Ma altre specie, proprio come diceva lei, vengono inglobate dal tessuto urbano, cioè quando la città si allarga si mangia, tra virgolette, degli spazi verdi all'interno dei quali ci sono ancora popolazioni di animali vitali, i picchi, per esempio. Non sono veri e propri frequentatori delle città, ma vengono in qualche modo inglobati all'interno del tessuto urbano e poi frequentano i grandi parchi dove si trovano alberi di grandi dimensioni che loro usano per nidificare. L'altro pianeta. Bene, ancora ben ritrovati. Stiamo parlando in questa puntata del libro Vado a vivere in città di Francesco Tomasinelli, che è un divulgatore scientifico, un fotogiornalista e autore appunto anche di questo volume, che è ricchissimo di fotografie, in cui si parla non di lui che va a vivere in città, ma di animali che negli ultimi decenni hanno cominciato a vivere meglio in città che in ambienti naturali, o di animali come i pappagallini che si sono trovati a vivere qui pur essendo esotici, perché sono stati liberati dai loro proprietari, si sono adattati al nostro clima, ma vivono in città dove non hanno predatori e trovano il cibo di cui hanno bisogno. Dicevamo poco fa dei parchi, prima della pausa del traffico, e lei ricorda nel libro Tomasinelli quelli di Roma in particolare, che hanno una biodiversità straordinaria. Sì, a Roma ha dei valori altissimi, ma non è proprio rappresentativa, no, del panorama italiano. No, infatti temo proprio di no. Bellissima, molto verde, con un clima mite, ed è stata anche molto studiata da questo punto di vista, dal punto di vista dell'ecologia urbana, quindi ci sono moltissimi dati su Roma. Le altre però purtroppo no, direi. Le altre sono meno entusiasmanti, chiaramente, di Roma, e al sud il fenomeno è probabilmente molto diverso, ma è stato anche meno studiato questo fenomeno dell'inurbamento degli animali selvatici. Le città sono anche tendenzialmente più piccole, e una città come Milano, per esempio, è probabilmente più povera di fauna selvatica rispetto a una città come Roma, perché sì, ha comunque meno aree verdi, ha uno sviluppo abbastanza piatta, mentre Roma ha tutti i colli, no? È molto dinamica, ha spazi verdi molto più ampi e meglio conservati. Sì, praticamente Milano è talmente disgregata forse che alla fine è meglio una città grande come Roma, ma che poi a un certo punto finisce, no? Mentre Milano continua a espandersi nelle province vicine sostanzialmente. Sì, è vero, quello che attira gli animali in città. Forse l'unico corridoio del nord è il Parco del Ticino, diciamo. Il Parco del Ticino sì, è ricchissimo di fauna, però non passa così vicino alla città, no? Circonda la città di Milano e quindi non porta gli animali all'interno della città. Però, insomma, è un fenomeno molto collegato, questo dell'inurbamento, anche alla diversità di ambienti, no? Se una città è piatta, è piuttosto omogenea, gli animali hanno meno possibilità di colonizzarla. Mentre città come Genova e Roma ospitano molti ambienti diversi, hanno comunque il mare vicino e quindi arrivano anche più specie animali. Le specie animali che troviamo in città, adesso non parliamo specificamente di quelle selvatiche, lei dice, sono anche un indice dello stato di salute delle nostre città, cioè ci sono delle possibilità di studiare attraverso gli insetti che le frequentano, gli animali, i volatili, così via, possibilità di studiare qual è l'ambiente e com'è lo stato di salute dell'ambiente nel quale viviamo. Sì, giusto. Molto spesso ci si interroga sulla qualità ambientale delle città e si possono fare un gran numero di analisi differenti, no? Anche di natura chimica, per esempio, no? Della qualità dell'aria. E molto spesso queste analisi sono impegnative, costose, e c'è un sistema a volte più semplice che dà buoni risultati, che è quello di utilizzare la fauna urbana come un modello per qualificare lo stato dell'ambiente all'interno delle città. Gli uccelli funzionano benissimo in tal senso e sono stati spesso utilizzati in passato per studi di ecologia urbana, perché reagiscono al disturbo, quindi all'interno, se un ambiente ben conservato, si trovano molte specie di uccelli, se invece un ambiente ha un impatto elevato da parte dell'uomo se ne trovano molte di meno. Questo è il principio base, e quindi è possibile mettere in relazione singole aree della città con la qualità ambientale, basandosi sul numero delle specie che frequentano, nidificano in una determinata area. Questo non è l'unico fattore da tenere in considerazione, no? Ci sono anche l'ampiezza delle aree verdi, altri fattori, l'inquinamento, eccetera, però è un modo speditivo per calcolare la qualità ambientale delle città, perché gli animali selvatici reagiscono molto a questi parametri. Certo, poi non tutti gli animali immagino siano adatti, nel senso i piccioni forse non sono grande bioindicatore. Giustissimo, si chiamano bioindicatori, ma i piccioni no, non sono da escludere, perché sono completamente abituati a vivere all'interno del tessuto urbano e quindi non qualificano. Sarebbe un po' come studiare un cane e un gatto, ecco, insomma, forse. In realtà una procedura classica prevede di dare un peso diverso alle diverse specie, cioè un picchio vale tanto, mentre una cornacchia vale poco e niente in questa scala. Certo, è così. Povera. Ci sono delle presenze curiose all'interno della città, queste hanno un peso molto maggiore per qualificare la qualità ambientale. E si usano anche altri gruppi, per carità, le farfalle sono ottime, ma sono molto stagionali. I ragni hanno dato ottimi risultati come indicatori, però li conoscono pochissime persone, quindi sono un modello molto difficile da applicare. Quindi alla fine si usano soprattutto gli uccelli, perché sono riconoscibili, molto diffusi, quindi sono un ottimo modello, un ottimo bioindicatore. Certo. E l'ultima questione, diciamo, che riusciamo ad affrontare nel tempo che abbiamo a disposizione è quella del fatto che è molto bello vederli, ma non sempre sono piacevoli. Cioè, ci sono animali, come ricordava lei poco fa, i piccioni, oppure lo storno a Roma, che non è certo sempre gradito, oppure i topi e così via, che invece ci piacerebbe ce ne fossero un po' meno. Lei qualche indicazione la dà anche per, come dice, contrastare l'eccesso di presenza animale in città. Sì, questo è un fenomeno che riguarda solo specie che hanno un rapporto stretto con l'uomo, no? Sono quegli animali avvantaggiati, clamorosamente avvantaggiati dalla nostra presenza, come i piccioni, i ratti o le zanzare, per esempio, no? Ma la loro presenza è proprio un indice dell'elevata densità dell'uomo, no? Di persone in una determinata area. Infatti, se ci si sposta all'esterno, si vedono per esempio molti meno piccioni, anche i topi sono di meno, i gabbiani stanno creando problemi di recente e così via, gli storni a Roma, no? Citava lei, ma spesso sono problemi locali che riguardano una singola area. Ad esempio a Roma c'è questo problema degli storni che si concentrano nei dormitori e fanno i loro bisogni sulle auto e i passanti, sì, no? Che passano sotto questi dormitori, però fenomeno sembra trascurabile, però se gli storni sono decine di migliaia o centinaia di migliaia in un'area limitata, accidenti là. Sì, non è limitato, no? Il problema. Si crea una patina ed è stato provato un po' di tutto a spaventare gli animali con dei rumori, suoni, ma questi dopo un po' tendono a abituarsi a ritornare. Quindi è un problema questo di difficile soluzione che va trattato per singoli punti, non ci sono regole applicabili dappertutto, no? Dipende localmente da cosa si può fare, spesso è meglio accettare un compromesso, no? Perché comunque non si possono debellare alcune specie, se ne può ridurre il numero, no? Con i topi ci proviamo da 8 secoli e non ci siamo ancora riusciti. Certo, possiamo solo fare attenzione, diciamo, ad avere certe precauzioni, sì, o possiamo comportamenti. Sotto controllo il numero, con le zanzare si fa già moltissimo e anche i singoli cittadini possono dare un contributo importante con le zanzare, per esempio eliminando le raccolte d'acqua sui balconi, no? In modo che alcune specie come la zanzara tigre, che si riproducono in pochissima acqua, non abbiano un substrato per poter crescere, no? Se uno le dà l'acqua, la zanzara non sa più dove deporre le uova e quindi non si riproduce. No, stavo pensando, ma non c'entra direttamente con la zanzara, pensavo alle nutrie oppure al discorso prima dei pappagalli. Possiamo anche stare attenti agli animali che liberiamo noi stessi in generale, per evitare poi dopo la questione dello scoiattolo americano che va in conflitto, certo, con lo scoiattolo europeo, scoiattolo rosso, oppure appunto le nutrie che erano qui per essere allevate e farne delle pellicce, poi sono state liberate e adesso sono un problema. Penso a quelli che liberano le tartarughe negli stagni o il pesce rosso da un'altra parte. Insomma, c'è una serie di cose che anche noi possiamo stare attenti a non fare. È vero, è un altro tema importante, no? Che è quello delle specie invasive, che è diventato molto più rilevante negli ultimi anni, perché fino a 50 anni fa la gente viaggiava molto molto meno di oggi e quindi gli animali selvatici non circolavano così spesso, ma adesso è diventato un problema di importanza clamorosa e molte delle specie che si trovano bene negli spazi urbani sono a tutti gli effetti animali alloctoni, cioè stranieri, che sono stati importati. E lei ha fatto l'esempio dello scoiattolo grigio, che è molto pertinente. O il pesce siluro, mi viene in mente anche, che anche quello insomma, mi sembra che mieta diversi danni nei fiumi. Quale? Il siluro, il cosiddetto. Il pesce siluro, per dire, non è una specie nostra, clamorosamente urbana, però anche il pesce siluro è frutto di un'introduzione nei fiumi, è stato fatto di tutto da parte delle associazioni pescatori, ma per ingenuità, non per un disegno malvagio, no? Perché molte cose all'epoca non si conoscevano, certe dinamiche ecologiche, e molte specie animali sono state introdotte in habitat estranei, no? Alla loro area di diffusione, e si sono trovate bene, sono aumentate di numero. Le tartarughe dalle orecchie rosse che citava prima sono un altro caso. Questi animali in città tendono a trovarsi molto bene perché spesso, ma non sempre, spesso non sono in competizione con altri, con le specie autoctone, no? E poi dalle città si allargano. Le nutrie sono state importate da noi un bel po' di anni fa, ormai per le pellicce, e adesso sono molto, molto diffuse anche negli ambienti naturali. Quindi non solo nelle città, capita di vedere le nutrie nei navigli, no, in pieno centro città, però queste nutrie si trovano anche nel Parco del Ticino, per dire. Certo, si sono, beh, poi sono particolarmente prolifiche, credo. Sì, perché... certo, e ormai sono dappertutto. Sì. È una battaglia persa, non è che si possa pensare di eradicare le nutrie. Lo si può fare ancora con, che so, gli scoiattoli grigi, diciamo, possiamo ancora vincere, tra virgolette, a Genova stanno muovendo gli scoiattoli grigi, per esempio, per poi introdurre i rossi. Nei parchi di Nervi però è ancora un'area molto limitata, mentre con le nutrie non si può più fare. Ormai ci hanno conquistato. Sì, porteremo i coccodrilli, che erano i loro nemici. No, ci sono riusciti in Inghilterra a rimuovere le nutrie, ma sono intervenuti subito, immediatamente. Nel nostro caso ormai è passato troppo tempo e ci teniamo le nutrie. Ci teniamo le nutrie. E allora, grazie ancora a Francesco Tomasinelli. Grazie a lei, gentilissima. Ricordiamo, autore di Vado a vivere in città, edizioni Il Piviere, 196 pagine, 20 euro. Il libro si presenta oggi alle 15 presso il Museo Civico di Storia Naturale di Genova, via Brigata Liguria, ricordiamo. Museo presso il quale lunedì si inaugura la mostra Snakes. Diamo anche questa informazione. Saranno in esposizione 100 esemplari vivi appartenenti a 50 specie di serpenti provenienti da tutto il mondo, dal cobra al boa e l'anaconda. Con tutte le informazioni ovviamente per capire questi animali e comprenderne l'importanza nella natura. Ci salutiamo, vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.